Affrontiamo uno dei problemi biblici che sicuramente hanno interessato tutti coloro che, per la prima volta, si siano avvicinati alla lettura della Bibbia, dove ha trovato Caino sua moglie. Leggiamo il testo che pone tale problematica. Genesi 4, 1-17. Ora Adamo conobbe Eva sua moglie, la quale concepì e partorì Caino e disse: Ho acquistato un uomo dall'Eterno. Poi partorì ancora Abele, suo fratello. E Abele divenne pastore di greggi, mentre Caino divenne lavoratore della terra. Col passare del tempo avvenne che Caino fece un'offerta di frutti della terra all'Eterno. Ora Abele offerse anch'egli dei primogeniti del suo gregge e il loro grasso. E l'Eterno riguardò Abele e la sua offerta, ma non riguardò Caino e la sua offerta. Così Caino ne fu molto irritato e il suo viso ne fu abbattuto. Allora l'Eterno disse a Caino: Perché sei tu irritato e perché il tuo volto abbattuto? Se fai bene non sarai tu accettato, ma se fai male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare. E Caino parlò con suo fratello Abele. Quando furono nei campi, Caino si levò contro suo fratello Abele e lo uccise. Allora l'Eterno disse a Caino: Dov è tuo fratello Abele? Egli rispose: Non lo so. Sono io forse il custode di mio fratello? L'Eterno disse: Che hai tu fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra. E ora tu sei più maledetto della terra che ha aperto la sua bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. Quando coltiverai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti, e tu sarai vagabondo e fuggiasco sulla terra. Allora Caino disse all'Eterno: Il mio castigo è troppo grande perché io lo possa sopportare. Ecco, tu mi scacci oggi dalla faccia di questo suolo e sarò nascosto dalla tua faccia, e sarò vagabondo e fuggiasco per la terra, e avverrà che chiunque mi troverà mi ucciderà. L'Eterno gli disse: Perciò chiunque ucciderà Caino, egli sarà punito 7 volte. E l'Eterno mise un segno su Caino affinché nessuno trovandolo lo uccidesse. Allora Caino si allontanò dalla presenza dell'Eterno e dimorò nel paese di Nod, ad est di Eden. E Caino conobbe sua moglie, ed ella concepì e partorì Enoch. Poi Caino costruì una città, a cui diede nome Enoch, dal nome di suo figlio. Il primo capitolo della Bibbia narra che Dio creò il primo uomo e la prima donna, cioè Adamo ed Eva. Poi il capitolo 4 racconta che Adamo ebbe rapporti sessuali con sua moglie, dalla quale nacque prima Caino, poi Abele. L'autore del libro della Genesi continua descrivendo che, in seguito, Caino uccise Abele e, di conseguenza, si allontanò dalla presenza di Dio, andando nel paese di Nod, ad est di Eden. Al versetto 17 leggiamo che Caino ebbe relazioni sessuali con sua moglie, ed essa concepì e partorì un figlio cui fu posto il nome Enoch. Ora la domanda è la seguente: se Caino e Abele sono stati i primi figli di Adamo ed Eva, se Caino uccise Abele, com'è possibile che Caino abbia trovato moglie nel paese di Nod? Per questo interrogativo, alcuni pensano che Adamo non sia stato il primo uomo, oppure che Dio avesse creato un'altra razza, dalla quale discendesse sua moglie. Cerchiamo quindi di rispondere a questo interrogativo. Quando leggiamo la Bibbia è indispensabile ricordarci che siamo di fronte ad una raccolta di libri, il più giovane dei quali ha quasi 2000 anni. Il vocabolo stesso, Bibbia, significa raccolta di libri. Infatti, nella versione protestante, essa contiene 66 libri, dei quali 2/3, cioè 39, appartengono per la loro natura linguistica e culturale al popolo ebraico. Cosa comporta questo dato di fatto? Comporta tutta una serie di difficoltà, una più impegnativa dell'altra, le quali poi aumentano notevolmente per chi non sia ebreo. Faccio un esempio. Ammettiamo che una persona assista ad una mia conversazione, alla fine della quale, stanco del dibattito, dico al mio interlocutore: Sai che cosa ti dico? Vai all'inferno. In seguito, questa persona scrive il tutto in un libro. Passano 2000 anni. Un giorno un gruppo di persone trova lo scritto. Qualcuno, subito, mette in dubbio che sia esistita, 2000 anni prima, una persona con il nome Ellero in un paese dell'Emilia, perché questo nome è prevalentemente toscano. Egli concluderà che Ellero non fosse una persona, ma un personaggio inventato alla stessa stregua di Don Chisciotte, Superman o l'Uomo Ragno. Un altro, dopo aver fatto delle ricerche storiche, dimostra che Ellero era veramente una persona vissuta a Formigine e che, quel tal giorno, concluse la sua discussione con quella frase. Una terza persona nota subito la sua malvagità perché ha mandato all'inferno il suo interlocutore. Ma un altro, del gruppo, dopo varie ricerche sulla cultura degli emiliani, scopre che quella frase non era altro che un modo per dire «togliti dai piedi, vattene via». Ecco, quindi, cosa avrebbero fatto i posteri per verificare l'attendibilità del documento e capirne il contenuto? Avrebbero svolto delle ricerche storiche ed esaminato la cultura del personaggio descritto. La Bibbia deve essere esaminata nella stessa maniera. Essa è sì la parola di Dio, ma rimane sempre e comunque un libro antico che deve essere trattato come tutti i libri antichi. È chiaro che le discipline da conoscere per comprendere o decifrare un testo biblico siano molte. Per brevità ne ho indicate solo due, interpretazione storica e culturale. Quindi è doveroso, leggendo la Bibbia, chiederci se l'episodio che leggiamo appartenga ad un vero fatto storico o al genere letterario delle parabole o della metafora. È chiaro che, ad un simile interrogativo generalmente, possa rispondere solo uno studioso, ma spesse volte ho riscontrato che resta sempre valida l'affermazione dei cristiani che ci hanno preceduto. La scrittura si interpreta con la scrittura. E ciò significa che, imbattendoci in un testo ostico, difficile da comprendere, dobbiamo aiutarci con altre parti della scrittura stessa. Perché ho sollevato il problema dell'interpretazione letterale? Per due motivi. Prima di tutto, perché molti studiosi continuano ad affermare che i racconti di Adamo ed Eva, di Caino ed Abele, siano soltanto allegorici, fatti che quindi non si sarebbero svolti così come li troviamo descritti nella Bibbia. Con questa premessa è chiaro che il problema della moglie di Caino sia già risolto, in modo errato. La seconda ragione è che il problema storico della Genesi, a mio avviso, non esiste. Sia Gesù che gli apostoli, infatti, hanno interpretato letteralmente il libro della Genesi. Gesù, in una discussione sul divorzio, risolse il problema con queste parole. Non avete voi letto che chi li creò? Da principio li creò maschio e femmina. E continuò. Perciò l'uomo lascerà il padre e la madre, e si unirà con la propria moglie, e i due diverranno una sola carne. Matteo 19. Con tale testimonianza, Gesù riteneva letterale il racconto della Genesi. Anche Paolo stabilisce il principio dell'universalità del peccato dell'uomo, Romani 5, e quello della sottomissione della donna all'uomo, 1 Timoteo 2, 11-14, riferendosi alla trasgressione di Adamo ed Eva, raccontata nel capitolo 3 della Genesi. Anche lo scrittore della lettera agli Ebrei considera letteralmente il capitolo 4 della Genesi, ricordando che il sacrificio di Abele fosse più eccellente di quello di Caino, Ebrei 11:4. Gli autori del Nuovo Testamento considerano gli avvenimenti della Genesi, quindi, come fatti veramente avvenuti e avvenuti nella maniera descritta. Continuiamo la nostra ricerca per comprendere dove Caino abbia trovato sua moglie. Appurato che l'avvenimento è storico, reale, affrontiamo ora il problema dal punto di vista culturale. Come ho già valutato, è già una grande difficoltà comprendere un testo vecchio di 2000 anni, essendo inoltre questo testo il risultato di una cultura molto lontana da noi, quella semitica. Ne consegue che ogni vero cristiano, desideroso di comprendere la parola di Dio, debba impegnarsi a studiare, prima, la cultura ebraica. Prima di rispondere alla nostra domanda iniziale, Esaminiamo le altre parti della scrittura in cui siano narrati avvenimenti, aventi un nesso con quello in esame. Leggiamo, in Esodo 2, 1 a 3. Un uomo della casa di Levi andò e prese in moglie una figlia di Levi. Questa donna concepì, partorì un figlio, e vedendo quanto era bello lo tenne nascosto 3 mesi. Quando non poté più tenerlo nascosto, prese un canestro fatto di giunchi, lo spalmò di bitume e di pece, vi pose dentro il bambino e lo mise nel canneto sulla riva del fiume. Questo brano racconta, né più né meno, ciò che si comprende. Un uomo si sposò e sua moglie ebbe un figlio. Credo che nessuno possa mettere in dubbio questa conclusione. Gli avvenimenti non andarono. Però, come qualsiasi lettore potrebbe facilmente concludere. Leggiamo il seguito del racconto. La sorella del bambino se ne stava a una certa distanza per vedere quello che gli sarebbe successo. La figlia del faraone scese al fiume per bagnarsi e le sue ancelle passeggiavano lungo la riva del fiume. Vide il canestro nel canneto e mandò la sua cameriera a prenderlo. Lo aprì e vide il bambino. Ed ecco, il piccino piangeva. Ne ebbe compassione e disse, «Questo è uno dei figli degli ebrei». Allora la sorella del bambino disse alla figlia del faraone, «Devo andare a chiamarti una balia tra le donne ebree che allatti questo bambino». ". L'autore della Genesi narra di una sorella, di cui non si fa neppure il nome, e della quale, solo in seguito, veniamo a sapere che si chiami Miriam. A giudicare da come si comporta, era già grandicella, forse aveva più di 10 anni. Qualcuno, che conosca la cultura ebraica, dirà che, poiché poi Miriam era una donna, fosse ovvio non vederne citato il nome. Esodo 6 e 20. Un ragionamento del genere potrebbe anche reggere, fino a quando il lettore non arrivi al capitolo 4. In esso è descritto l'incontro di Mosè con Yahweh, che lo manda a liberare il suo popolo. Mosè ricalcitra non volendoci andare. Così Yahweh lo rimprovera, aggiungendo, nonché è Aaron e tuo fratello, il Levita. Io so che parla bene, e, per l'appunto, egli esce a incontrarti, e quando ti vedrà, si rallegrerà in cuor suo. L'Eterno Dio ricorda a Mosè che egli ha un fratello di nome Aaron. Più tardi sapremo che questo era più vecchio di lui, di 3 anni. Quindi, l'autore del libro dell'Esodo ha raccontato la nascita di Mosè senza preoccuparsi di specificare se, prima, egli avesse avuto fratelli o sorelle. È stata una dimenticanza, fa parte della cultura ebraica, oppure vi era una determinata ragione? A questo risponderemo fra poco. Intanto notiamo che, evidentemente, gli scrittori non presentano sempre i racconti in modo cronologico. Questo atteggiamento non dovrebbe stupirci molto, poiché noi stessi, nei nostri discorsi, omettiamo certi particolari, spiegando certi avvenimenti. Inoltre, questo non è l'unico episodio dove un redattore ometta dei particolari. Nel libro di Giobbe, leggiamo che egli fu visitato da 3 amici. Fino al capitolo 31 scorre un'accesa discussione tra loro. La scena, che si presenta alla nostra mente, sarebbe di 4 uomini riuniti a parlare. In realtà, la situazione era diversa. Al capitolo 32 notiamo che lo scrittore nomini senza nessuna premessa un certo Elihu, che ha, evidentemente, assistito a tutta la conversazione, 32, 1 a 4. Forse una delle omissioni che mi ha sorpreso di più è quella dei figli di Bathsheba, la moglie di Uria, l'Itteo, che Davide fece uccidere. Se leggiamo in 2 Samuele 12, 23 e 24, sembra che, dopo la morte del primo figlio di Bathsheba, il figlio successivo, e anche unico, sia stato Salomone. Però, in 1 Cronache 3 e 5, scopriamo che Davide ebbe da Bathsheba 4 figli e che Salomone non è citato come il primo, ma come ultimo. Così, pure per Canaan, il figlio di Cam, secondo Genesi 9 e 18, sembra che sia l'unico figlio, mentre in Genesi 10 e 6 esso è nominato come quarto. E, per concludere, in Genesi 19 e 24, le città nominate, distrutte dal fuoco, sono solo Sodoma e Gomorra, mentre esse erano quattro. Ora siamo più preparati per comprendere il testo della Genesi, riferente alla moglie di Caino. Leggiamo, in Genesi 5, 1 a 3, questo è il libro della discendenza di Adamo. Nel giorno in cui Dio creò l'uomo, lo fece a somiglianza di Dio. Li creò maschio e femmina, li benedisse e diede loro il nome di uomo, nel giorno in cui furono creati. Adamo visse 130 anni e generò un figlio a sua somiglianza, conforme alla sua immagine, e lo chiamò Set. Notiamo che, anche qui, l'autore della Genesi usi la stessa logica narrativa. Non sono citati i primi figli di Adamo. Se qualcuno cominciasse a leggere la Bibbia dal capitolo 5, stabilirebbe inevitabilmente che il primo figlio di Adamo era Set. Anche nel libro delle Cronache troviamo la stessa genealogia, 1 Cronache 1:1. Questo metodo di descrizione delle genealogie conduce alla seguente conclusione. Gli scrittori, nell'elencare i figli, non lo fanno in ordine di nascita. Perché usano questo metodo? La spiegazione è semplice. Lo scrittore, quando narra degli avvenimenti, ha sempre un obiettivo primario. Cerca di essere fedele a questi piuttosto che a soddisfare la curiosità del lettore. Spieghiamo ora i testi in questione alla nascita di Mosè. I capitoli e i versetti che i traduttori hanno stabilito per dividere la Bibbia sono utili e necessari, ma a volte possono sviarci da una giusta interpretazione del testo. Infatti, se leggiamo di seguito dal capitolo 1 fino al capitolo 2 di Esodo, ci rendiamo conto che Mosè nacque proprio nel tempo in cui venne dato l'ordine di uccidere tutti i maschi ebrei. È chiaro che lo scrittore non si preoccupi di citare i figli nati prima ai genitori di Mosè, perché questo non interessa i fini del suo racconto. Anzi, non citandoli risalta più chiaramente che Mosè fosse nato proprio nel momento più difficile, che avesse attraversato il popolo ebraico nella sua permanenza in Egitto. Anche nel versetto di Genesi 5, 3, lo scrittore vuole mettere l'enfasi sulla genealogia da Adamo fino a Noè. E, dal momento che né Caino né Abele hanno avuto parte in questa genealogia, egli non li ha neppure citati, saltando direttamente a Set. Infatti, anche l'apostolo Giuda, nella sua lettera, versetto 14, riscontra che Enoch è il settimo da Adamo, seguendo lo stesso principio di 1 Cronache 1:1. Abbiamo compreso dove Caino trovò la moglie. Il problema era sorto perché noi partivamo dal presupposto che Caino e Abele fossero i primi e gli unici figli di Adamo ed Eva. A seguito però delle considerazioni sopracitate, esso è diventato ora un presupposto deviante e contestabile. Per quale motivo lo scrittore ha citato Caino e Abele senza nominare gli altri figli? Egli voleva rimanere in armonia con il libro della Genesi. La parola Genesi significa principio. In effetti, in questo libro vi è il principio della creazione, del peccato, delle promesse, della chiamata del popolo d'Israele e della sua formazione. Nel narrare la storia di Caino e Abele, lo scrittore narra il primo omicidio e, molto probabilmente, anche la prima morte di un essere umano. Qualcuno ha suggerito che, dal momento che si parla di Genesi, cioè del principio di tante cose, è probabile che Caino e Abele siano stati i primi figli. Riflessione più che accorta. Lo scopo del narratore non era però quello di citare cronologicamente i figli di Adamo ed Eva, piuttosto quello di narrare come fosse avvenuto il primo omicidio. Lo stesso principio lo troviamo in 1 Cronache 5:1. Figli di Ruben, primogenito di Israele. Egli era davvero il primogenito, ma siccome aveva profanato il letto di suo padre, la sua primogenitura fu data ai figli di Giuseppe, figlio di Israele, così la genealogia non è riportata in base alla primogenitura. A dispetto delle figure che vediamo nelle scuole domenicali, Caino e Abele non erano dei bambini né dei giovani, ma persone d'età molto avanzata. Infatti, in Genesi capitolo 5 e versetto 3, leggiamo che Adamo generò Set quando aveva 130 anni, cioè subito dopo la morte di Abele. Possibile che, fino a quell'età, Eva avesse avuto solo due maschi, e molto più probabile che Adamo ed Eva, nel frattempo, avessero avuto altri figli e figlie. Ecco perché Caino andò nel paese di Nod e trovò moglie. Nello spazio di 100 anni gli uomini fecero in tempo a moltiplicarsi e a costruirsi delle città. Anche Caino costruì una città, cui diede il nome di suo figlio, Genesi 4 e 17. Non dimentichiamo che la vita, a quell'epoca, arrivava ad 800-900 anni. Se Caino fosse stato solo, non si sarebbe rivolto a Dio lamentandosi: avverrà che chiunque mi troverà mi ucciderà. Egli sapeva di non essere solo e Dio, per questo motivo, mise un segno su Caino affinché nessuno, trovandolo, lo uccidesse. Chi poteva uccidere Caino se questo fosse stato solo? Non abbiamo nessun appoggio scritturale per sostenere che Caino e Abele fossero i primi due figli di Adamo ed Eva. Ne abbiamo molti piuttosto che ci inducono ad affermare il contrario. Anche se lo fossero stati, è certo che, al momento dell'omicidio di Abele, la terra fosse già popolata. Caino e Abele sono citati solo per l'omicidio. Quando Caino andò lontano dalla presenza dell'Eterno, erano già passati 130 anni dalla creazione di Adamo. Tempo, questo, sufficiente perché gli uomini della sua generazione si moltiplicassero e costruissero varie città. Caino se ne andò dal suo luogo per andare nel paese di Nod, dove trovò appunto moglie. Febbraio 1985, Ellero,